Intorno alle 4 del pomeriggio dello scorso 25 agosto mi trovavo più o meno orizzontale a sedere nudo all'aria, mentre una graziosa fanciulla stava trafficando con grande professionalità e con l'attenzione scrupolosa di un adolescente impegnato in un videogioco intorno, e non solo intorno, al mio orifizio anale. Lei non era una prostituta specializzata in servizi sadomasochisti e tutte e due facevamo la nostra parte in una struttura ospedaliera. Io stavo dalla parte della malattia e lei da quella della cura. Sullo schermo a colori seguivo un film dell'orrore in cui qualcuno cercava qualcosa di mostruoso in meandri cavernosi e sanguinolenti, e ogni tanto le voci fuori campo discutevano sui colori della prossima collezione autunno-inverno, o sullo stato delle spiagge nel Madagascar, o sulla necessità della pancetta nella steccatura dello stracotto. Ad un certo momento, proprio mentre nel film da un'escrescenza di cellule degenerate zampillava copiosamente sangue fresco, e mentre io pensavo che maledizione quello era sangue del mio sangue, una voce ha chiesto come mai non fosse presente il tal infermiere. Un'altra ha risposto che era in malattia, e la prima ha aggiunto, ma lo sai cosa mi hanno detto l'altro giorno? Che è lui l'amante della dottoressa tal dei tali. Pensavo che tutta la troupe sapesse a memoria l'intera serie dei telefilm medici in prima linea e che volessero dimostrare al paziente che la vita d'ospedale è a bagnomaria nella vita di tutti i giorni, che loro non fossero squallidi professionisti astratti dalla cosiddetta realtà concreta, che mi volessero in qualche modo rassicurare, facendomi interprete di una narrazione più credibile di quanto non fossero quelle antiche concernenti medici e infermieri, tutti spasmodicamente protesi sul budello del paziente, comunicando fra loro a forza di bisturi, garza, sutura, con l'immancabile finale di l'abbiamo perso. E invece no. I loro dialoghi non rispondevano soltanto all'esigenza di propinarmi una narrazione più credibile di quel che mi stava capitando, ma costituivano anche un subdolo reato, un caso di mobbing. L'ho saputo soltanto ora. Nei giorni scorsi ho letto Lo sciamano in elicottero, l'ottimo libro che Marco Deramo ha dedicato alla storia del nostro presente e dalle culture contraddittorie che, animandolo, presumibilmente gli tagliano via parecchio futuro, e ho scoperto il mobbing, ovvero ho scoperto che qualcuno ha ritenuto opportuno ribattezzare in un'unica categoria un insieme di nefandezze che caratterizza il genere umano, diciamo civile, più o meno da sempre. Mobbing è sostantivo derivato da un verbo che significa assalire o aggredire, ma quando Oswald Neuberger, che gli ha dedicato un libro, lo definisce giocare sporco nelle organizzazioni, credo che renda bene l'idea. Lo stesso Iago, allorché nel suo piccolo lavorava al fegato di Otello tarlando le virtù di Desdemona, si rivelava un mobbinghista provetto. Ogni luogo di lavoro è già in quanto tale la migliore palestra di mobbing. Al telefono azzurro tedesco, cui le vittime di tale pratica assassina possono rivolgersi in cerca di consiglio e conforto, la classifica dei querulanti vede al primo posto gli impiegati, poi le segretarie, le dattilografe, i commessi e ad un onorevolissimo quinto posto il personale medico, a conferma di come, nonostante le obiettive difficoltà della mia posizione, avessi qualcuno in flagranza di reato quel pomeriggio del 25 agosto scorso. Del mobbing lo si fa insinuando che il collega si lava poco o aprendo la finestra appena esce dall'ufficio, lo si fa dicendo in giro che è sempre al telefono, buttandogli nel cestino una pratica appena si assenta dalla sua scrivania, riferendo particolari inediti dell'esistenza passata sua o dei suoi familiari, o rivelando sentiti dire sulle sue inclinazioni sessuali. Chi sta in alto nelle gerarchie aziendali poi, se vuol rovinare la carriera di qualche suo sottoposto, ha almeno tre stili di mobbing a sua disposizione. O gli affida un incarico ineseguibile perché è palesemente superiore alle forze di chi dovrebbe svolgerlo, o gli affida un incarico vistosamente inferiore alle sue qualità, come affidare, non so, la pulizia dei cessi a un biologo molecolare, oppure ancora non gli affida alcunché. Lo lascia bollire nella sua frustrazione crescente, nel dubbio e nel solipsismo burocratico. C'è qualche ufficio che comunica con il mio? Il mio comunica con qualcosa? Dove vanno le carte che escono di qui? Chi c'è? Chi c'è al di là del filo del telefono? In un paese in cui l'omicidio è tollerato e la strage è incoraggiata, in un paese in cui il furto è apprezzato e la recidività nel reato è premiata, in un paese in cui chi fa la spia è figlio di Maria, in un paese insomma come il nostro, tale reato, il mobbing, non poteva restare a lungo impunito. Ed ecco che prontamente un presidente di tal commissione finanze fa una proposta di legge nei giorni scorsi, nella dichiarata quanto pelosa speranza di prevenire il fenomeno e tutelarne le vittime. Si chiude, come al solito, la stalla dopo che i buoi sono scappati. Se la gente sul luogo di lavoro è carognosamente cretina, vile, turlupinante, se vuole aver successo a danno del collega, se festeggia in nome della mors tua vita mia, un motivo ben radicato c'è. La vita è tutta una competizione. Dalla scuola al lavoro il premio tocca al più furbo, al più accondiscendente, a chi accetta le cose come stanno e si dà da fare perché continuino a stare così. Emergono i mediocri rinunciatari, dunque, che non avendo meriti propri da evidenziare, si fanno avanti covando rancori, gettando fango sui colleghi, a maggior ragione se innovativi, creativi e contestatari. Si cambi il modo di vivere, si sradichi le strutture ideologiche del lavoro coatto e della pace sociale, si premi la creatività e, senza bisogno di leggi, ecco che i mobbinghisti svaniscono. Marco Deramo conclude la sua analisi del mobbing con un breve racconto che merita di essere ricordato. Allora, in un ufficio dove lavora una signora, viene inserito un giovane. Lei gli insegna tutto quello che c'è da insegnargli e lui pian piano impara. Dopo un po' viene trasferito e la signora non ne ha più notizie. Torna tuttavia tempo dopo come suo superiore. Le si presenta davanti e le stringe la mano, ma lei si accorge che questa mano è sudaticcia. I mesi successivi sono stati un inferno. In quell'ufficio la situazione per quella signora si rese presto insostenibile e lei alla fine si decise a rassegnare le sue dimissioni. Deramo è ottimista, in fin dei conti dice che il mobbing in ultima analisi è una mano sudaticcia. Più pessimista, io direi che la signora ha avuto due colpi di fortuna: individuare il motore iniziale del mobbing e poterne constatare l'intrinseca debolezza, perché il nostro non è più da un pezzo il paradiso del determinismo e di solito non hai la più pallida idea di chi ti sta ammazzando e al quale è ormai raro che sudino le mani.